Marco e il Gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Hai mai seguito il volo di un falco o di un gabbiano? Traiettorie ardite nel vento, dentro al cielo lontano. Io sono così e ho voglia di volare, mentre dico che ti avrò, e ti avrò. Se io vi dico volete il meglio e avrete il meglio, dico una frase neanche tanto originale, ma se io vi dico you want the best e you got the best, avrete capito che sto parlando dei Kiss. Un gruppo che dall'inizio degli anni 70 ha rappresentato un faro per gli amanti del hard rock e del heavy metal, di quell'hard rock, un gruppo che ha fatto del travestimento la sua forza, ma che ha creato soprattutto un marchio che è stato sfruttato con migliaia di gadget. Bene, l'artefice commerciale di questo miracolo, il motore pulsante dei Kiss, è il bassista. È un uomo che ha fatto parlare molto di sé per il suo aspetto inquietante, per la sua lunghissima lingua, perché si vanta, e temo che sia vero, anzi spero per lui che sia vero, di aver amato 5.000 donne. Insomma, il loro bassista, il bassista dei Kiss, è Gene Simmons. Gene Simmons, che in realtà si chiama Chaim, nasce a Haifa nello stato di Israele il 25 agosto del 49, figlio di immigrati. E non è un bel periodo crescere nel neonato stato di Israele subito dopo la guerra, perché in quel periodo, insomma, c'è un conflitto sociale piuttosto acceso in quella che non è una terra di pace, sicuramente. Quando ero un bambino in Israele non avevamo niente. C'era un buco sul muro di casa nostra fatto da un razzo, e mio padre, finito di lavorare, spesso andava al fronte a combattere. E il fronte era a due passi da casa. Non avevamo elettricità, niente carta igienica, nessuno spazzolino da denti, non avevamo niente. La madre, che è sopravvissuta ai campi di concentramento, vuole che il figlio cresca in un posto dove ci siano più opportunità per lui, quindi decide di emigrare in America. Il marito non la vuole seguire in questa avventura, così i due si separano. Il piccolo Chaim ha solo 7 anni, parte con la madre per gli Stati Uniti e cambia il suo cognome in Klein, che è il cognome della madre. Con il padre il bambino non ricucirà più i rapporti familiari, anche se rimane in contatto col padre fino alla morte. Dopo che mio padre mi ha abbandonato non l'ho più rivisto. Io ho fatto il mio dovere grazie alla mia carriera. Gli ho comprato una casa, l'ho mantenuto e non gli ho fatto mai mancare niente, ma non ho mai voluto avere più alcun contatto con lui. Io sono molto chiaro in queste cose. Ok, mi hai dato la vita, io mi prendo cura di te, ma non voglio che ci sia nient'altro tra di noi. E lui cresce a New York come uno dei tanti immigrati, confinato all'interno della comunità ebrea della città. Cresce in un ambiente dove si parla in una lingua che lui ancora non capisce, con usanze e tradizioni in forte contrasto con lo stile di vita americano. Però il bambino ha le idee molto chiare su cosa bisogna fare per integrarsi velocemente. Il mio nome era difficile da pronunciare, sembrava il suono di un cappello sbattuto per terra. Allora mi sono detto, ok, cambiamolo in modo che sia più comprensibile. Adattiamoci alle usanze degli americani. Se io vengo a casa tua e sei un tipo tradizionale, allora mi metterò la cravatta e mi legherò i capelli. Non voglio essere arrogante ed importare le mie tradizioni in casa tua. Non aspetterò che sia la montagna a venire da Maometto. E qui c'è la prima lezione di vita, una cosa molto attuale. Non voglio essere arrogante e importare le mie tradizioni in casa tua. E cioè, se vai in un paese straniero devi immediatamente integrarti e prendere le abitudini di quel paese straniero se vuoi fare successo. E così Chaim Klein cambia il suo nome in Eugene, tutti lo chiamano Gene. In casa c'è anche la televisione e si vede l'Ed Sullivan Show. Gene vede 4 ragazzini di Liverpool che cantano, si innamora della musica. We'll shake it up, baby, now. stesso periodo in cui Gene Clancy si avvicina alla musica, il cognome Simmons arriverà più tardi, c'è un altro ragazzo che vive nel Queens, che ha poca voglia di studiare e che ha tanta voglia di fare musica. Si chiama Paul Stanley e nel 72 si conoscono Paul Stanley e Gene Simmons. Simmons ha una sua band, Stanley si propone come chitarrista, la prima impressione che ha di Gene Simmons non è delle migliori. Gene portava i capelli lunghi e la barba sul suo doppio mento. Era decisamente sovrappeso. Io ero piuttosto piazzato allora, ma rispetto a me questo tipo sembrava davvero un gigante. Indossava una camicia larga e dei sandali e sembrava uscito da un programma TV dedicato alla musica country. Insomma, i due ragazzini, anzi i due ragazzoni, sembrano tutto fuorché dei sex symbol. Eppure Gene Simmons ha già le idee molto chiare su dove vuole arrivare e anche sulle sue capacità artistiche. Gene mise subito in chiaro che non mi riteneva musicalmente alla sua altezza. Poi mi intimò, quasi con un atteggiamento di sfida, a suonare uno dei miei pezzi. Si mostrò assolutamente sorpreso del fatto che, a parte John Lennon, Paul McCartney e Gene Clancy, qualcun altro al mondo fosse capace di scrivere buona musica. Eh sì, qui abbiamo i primi segnali di un ego debordante che però è ben canalizzato e porta al successo. Però a livello di autostima, Gene Simmons non è mai stato secondo a nessuno. Intanto nasce questa collaborazione artistica, questa amicizia che lega Gene Simmons e Paul Stanley da più di 40 anni e fondano il primo gruppo che si chiama Wicked Lester. Fanno un disco che non verrà pubblicato, è un anticipo di quello che i ragazzini innamorati della musica faranno negli anni successivi. Intanto a New York c'è un fenomeno che si chiama glam rock, c'è una band che si chiama New York Dolls, una band unica nel suo genere, cantavano agli inizi degli anni 70 già vestiti da donne, quindi avevano comunque un'immagine che in qualche modo si rivelò vincente, anche se i New York Dolls furono solo una meteora. Siamo nel 73, circa un anno prima due ragazzi della comunità ebraica di New York che si chiamano Paul Stanley e Gene, ora Gene Simmons, prima Gene Klein, hanno dato vita a un gruppo, finalmente hanno scelto il nome del gruppo doveva essere Kiss, un nome facile da ricordare, immediato, con un rimando indiretto al bacio della passione, al bacio della morte. Insomma, una serie di ingredienti che stanno delineando un carattere preciso della band. Intanto i protagonisti dei concerti newyorkesi sono soprattutto i New York Dolls, che hanno un look completamente diverso da tutti i gruppi, l'abbiamo detto prima, vestiti da donna, stivali, tacchi a spillo, erano veramente una novità. Il punk deve moltissimo a New York Dolls. Così i Kiss una sera si trovano a suonare nello stesso locale e nascono i primi dubbi, perché Paul Stanley si accorge che c'è qualcosa che non va. I loro fianchi avevano la circonferenza dei miei polsi. In confronto io e Gene sembravamo due difensori di una squadra di football americano. Ci guardammo in faccia. In quel momento realizzammo che i Kiss sembravano più un gruppo di pompieri vestiti da donna che una rock band. Così non poteva funzionare. Eh sì, qui ci vuole un colpo d'ala, perché quel tipo di look, il look del glam rock, è molto delicato, un po' effeminato e bisogna essere veramente magri, bisogna essere particolari e un po' efebici, insomma bisogna cambiare tutto, quindi buttare via tutti i vestiti un po' da donna con cui anche i Kiss si presentavano al pubblico sulla scia del glam rock, cambiare look, adottare un aspetto aggressivo fatto di borchie, collari per cani, articoli comprati nei negozi sadomaso, stivali alti, spalle imbottite. Poi il colpo di genio: ogni componente della band va truccato con un trucco particolare che lo avrebbe accompagnato per tutta la sua carriera. Allora, Paul Stanley sceglie un personaggio di Star Child, il figlio delle stelle, stella nera a coprire uno degli occhi. Poi ci sono Spaceman e Catman, l'uomo dello spazio e l'uomo gatto, e sono i due nuovi membri della band, Ace Frehley e Peter Criss. Ma poi c'è il personaggio più inquietante, ci vuole qualcuno che incuta anche un po' di paura. Trucco simmetrico a coprire entrambi gli occhi, sguardo cattivo, è nato The Demon, il demone, Gene Simmons. Credo che l'unico motivo per cui abbiamo deciso di truccarci sia stato per rendere Kiss una band unica. Non voglio assomigliare a nessuno, non voglio indossare abiti uguali agli altri. Se mi vesto così, sono convinto che tutto risulti più eccitante. Il cambiamento è radicale, anche la loro musica subisce una trasformazione, diventa più cattiva, più heavy metal, cominciano ad avere successo. Da quel momento la band non si occupa solo di fare musica, ma anche di curare la propria immagine. Intanto quella di decidere di apparire in pubblico sempre truccati è una grande idea, perché per anni i fan e la stampa si chiedono che facce avessero veramente i componenti dei Kiss. I giornali di gossip pubblicano vecchie foto, qualche scatto rubato, però il mistero viene portato avanti ad arte per molti anni. Siamo in un periodo dove non ci sono gli smartphone in ogni angolo di strada a fotografare la vita privata delle star, e quindi il mistero è difendibile e molto meglio. Suono diventa potente e soprattutto i Kiss cominciano a specializzarsi, a seconda delle loro possibilità, in spettacoli pirotecnici, cioè avvengono delle cose sul palco. Gene Simmons si caratterizza immediatamente, cioè è comunque il personaggio dominante, prepara una serie di artifici scenici che rendano lo spettacolo dei Kiss ancora più unico. Durante gli spettacoli facevo alcune cose che lasciavano il pubblico senza parole. Prima di tutto tiravo fuori la mia lingua, che è lunghissima e che riesco a far girare come un elicottero. Altre volte sputavo del sangue sintetico dalla bocca, altre volte ancora sputavo fuoco come nei circhi. Un po' alla volta la stampa cominciò a dichiarare che fossimo in qualche modo legati a Satana. I Kiss non sono certo dei musicisti come i Led Zeppelin, come i Deep Purple, eppure la loro forza sono proprio le esibizioni live, molto più dei dischi. Smorfie, sguardi satanici, coreografie, cioè loro che ballano tutti e tre assieme davanti in un certo modo unico. I loro concerti diventano sempre più appetibili, al punto che il loro album Alive è in realtà la loro reale consacrazione. Accadeva in quegli anni, sarebbe successo anche con Peter Frampton e con un sacco di altre band, cioè l'album dal vivo in realtà era il coronamento di una carriera, in quel momento tutto parte veramente. L'album Alive dei Kiss è un album che realizza vendite enormi e nasce il mito dei Kiss con questo logo, con le due S stilizzate che ricordano palesemente il marchio delle SS naziste, quindi altro oggetto di scandalo, anche perché nella band ci sono figli di persone scampate ai campi di concentramento. Veni a sapere che il nostro logo era stato bandito in Germania per via del richiamo all'iconografia nazista. Quando disegnai quel logo non avevo nessuna intenzione di creare controversie a spese delle vittime della storia. Non avrei mai sopportato un simile peso sulla coscienza. Inoltre, da ebreo, ero parecchio sensibile all'argomento SS, sapendo che la famiglia di Gene era sopravvissuta all'olocausto. Arrivano anni in cui una rock band che si rispetti non deve solo suonare bene, non basta avere Jimmy Page o Pete Townshend nel tuo organico, devi comunque far parlare, scandali e polemiche. Alice Cooper da un lato con i suoi serpenti, con i suoi album, non dico satanisti, ma comunque che parlavano di horror, i Black Sabbath con le intemperanze di Ozzy Osbourne, insomma l'elenco sarebbe molto lungo. lungo, e quindi in qualche modo viene anche risvegliato da parte dei Kiss un'immagine forte e potente. Il pubblico è prevalentemente maschile in quel tipo di metal, però evidentemente le donne cominciano a essere interessate a un genere di musica che prima piaceva solo agli uomini. Stiamo raccontando la storia di Gene Simmons, bassista di una delle rock band più famose della storia, i Kiss. Una band che si segnala soprattutto per una iconografia precisa, per un modo di fare concerti che segnerà la strada anche a molti altri, e anche per testi non insomma particolarmente impegnativi, parlano di sesso e di tutto questo. Però accanto alla carriera musicale, Gene dimostra di essere soprattutto un uomo d'affari che capitalizza alla grande la fama del suo gruppo. Non credo che la gente capisca quanto questa cosa sia diventata grande. Abbiamo programmi televisivi, un film in lavorazione, un cartone animato, un campo da golf a Las Vegas, un servizio di limousine, più di 5.000 prodotti del nostro merchandising. Una cosa che nessuna band ha mai avuto prima. Eh sì, i Kiss diventano un vero e proprio brand. Se andate a cercare sui loro siti potete trovare qualsiasi cosa, dalla carta igienica alla macchina customizzata alle tende di casa. Ci sono perfino le bare dei Kiss. Cioè, qualsiasi cosa vi venga in mente la trovate con il brand dei Kiss, con sopra qualcosa dei Kiss. E pensate che negli ultimi anni i Kiss, quando fanno i concerti, hanno un vero e proprio tariffario. Cioè, tu compri il biglietto, se vuoi assistere alle prove paghi $100 in più, se vuoi farti la foto con i Kiss truccati da Kiss paghi altri $100. C'è un vero e proprio tariffario, cioè la bravura di Gene Simmons, al di là di quanto suoni il basso, è soprattutto quella di rendere totalmente money, totalmente denaro, qualsiasi cosa i Kiss facciano. La nostra filosofia è stata quella di creare una solida struttura attorno alle nostre canzoni. Ci sono molti gruppi pop che hanno un solo grande successo, ma di loro non sai chi sono, come si chiamano, che faccia abbiano. Io ho sempre applicato l'etica del lavoro. Che tu sia un operaio, uno scrittore o un musicista, se quello è il tuo lavoro, ti ci devi dedicare dalle 9 del mattino alle 10 di sera. Un'altra particolarità, oltre a quella di essere legati più al denaro che non alla musica, è quella, soprattutto da parte di Gene Simmons, di non avere mai fatto uso di alcol e di droghe, anzi di averle combattute al punto da tirare dalla sua parte un Paul Stanley inizialmente consumatore di droga, e al punto da estromettere dalla band gente come Ace Frehley, il chitarrista, che per colpa dell'eroina era si era ridotto un po' una larva umana, insomma suonava veramente male. L'ultima volta che ho visto i Kiss con Ace Frehley non erano un granché. Insomma, il marchio Kiss è ormai di due persone, Gene Simmons e Paul Stanley. Un abile imprenditore come lui sa ottenere il massimo dalla propria fama e non tollera cedimenti e le soliti vezzi da rockstar con crisi esistenziali e droghe. Il loro segreto è palesemente quello di creare una comunità mondiale attorno alle idee imprenditoriali di Gene Simmons. Everybody's gonna leave their seat. Comunque, una volta salito sul palco, Gene Simmons rimane persona degna e credibile, anche se sputa fiamme come un mangiafuoco, sputa sangue sintetico, rote alla lingua e poi viene issato fino alla cima del palasporto dello stadio in cui suonano per fare un assolo di basso, insomma non particolarmente tecnico ma molto spettacolare da vedere. Ma c'è un'altra componente di Gene Simmons che è fondamentale per la sua vita: il sesso. Noi eravamo in tour sempre, senza sosta, e io mi consideravo una puttana 24 ore su 24. L'unica cosa a cui ero capace di pensare era il sesso. Non potevo aspettare di scendere dal palco e tornare all'hotel, che avevo già trovato una donna. Eh sì, Gene Simmons ha una vera e propria sindrome, non è un hobby. Una donna dopo l'altra, una vera e propria macchina del sesso, vive al massimo la sua vita da rockstar. Insomma, quando sei il bassista dei Kiss sei anche piuttosto avvantaggiato. Si racconta che tecnici, manager, discografici siano abituati alle improvvise sparizioni di Gene Simmons chiuso in qualche sgabuzzino, in qualsiasi posto in cui potersi appartare con la ragazza di turno. La ragazza delle pulizie dell'hotel. La vedevo e me la facevo. Andavo a fare una visita medica, l'infermiera era lì e boom, me la facevo. Non c'era donna che mi resistesse e io mi sono divertito con ognuna di loro. Al di là del fatto che non è proprio elegantissimo raccontare in questo modo le proprie esperienze, però indubbiamente insomma i musicisti sono palesemente avvantaggiati da questo punto di vista, sono molto appetibili, ci sono donne che ti aspettano in una città ogni volta che arrivi. Ovviamente se poi sei uno dei Kiss tutto questo va moltiplicato per il mondo, e quindi in qualche modo intanto la notizia fa parte, come dire, del pacchetto pubblicitario Kiss, e poi Gene Simmons ha il piacere e il lusso di scegliere tra il pubblico una ragazza che gli viene portata dietro le quinte, e fino a qui, insomma, per carità, lo abbiamo fatto tutti. Ma la cosa interessante è che la cosa è diventata telematica, cioè ci sono dei siti con delle waiting ladies, cioè delle donne che in qualche modo attendono di avere il loro momento con Gene Simmons e poi vengono sostituite da un'altra, e qui insomma saliamo di livello. La passione che Gene Simmons ha per le donne è oggetto di ogni intervista che lui rilascia. Ha passato i 65 anni, però si vanta di essere ancora intanto sulla piazza, di concedersi delle scappatelle dalla magnifica donna che condivide la sua vita da 28 anni, insomma, di essere sessualmente attivo, vivo e vegeto. Eh sì, perché intanto nell'83 lui inizia una relazione con Shannon Tweed. Secondo voi è carina o brutta questa? È carina, la bellissima coniglietta di Playboy, nominata 2 anni prima Playmate dell'anno. È una donna che è ancora oggi al suo fianco, anche se ha sopportato tradimenti, scappatelle. Lui ha avuto una relazione con Cher, con Diana Ross, e si vanta di aver raggiunto un record invidiabile. In una intervista rilasciata alla televisione australiana trova il modo di flirtare con la giornalista che gli fa domande sulla sua vita privata. Have you ever slept in your makeup? Hai mai dormito con il trucco? Ah, certo, con donne di cui non potrai mai sapere l'identità. Con quante donne hai dormito? Well, sleeping had very little sleep. Dormire è una cosa che non faccio mai con le donne. Allora, con quante donne sei stato a letto? Beh, meno di 5.000. Meno di 5.000? Stai scherzando? No, 4.600, 4.700, insomma, più o meno. Pensi ancora di essere in grado di conquistare qualsiasi donna sul pianeta? Certo, ne sono convinto. Ma non significa nulla, perché per me è un continuo amare le donne e lasciarle. Just love and leave them. È pericoloso, però, perché se dici queste cose poi la donna si sentirà speciale se non ci sta più di quanto lo sarebbe se ci stesse. È un'arma a doppio taglio. Comunque intanto nascono 2 figli, tra cui Sophie, che di recente ha anche partecipato all'edizione americana di X Factor. Nel 2011 lui finalmente la sua playmate la sposa, festeggiando con tanti amici, tra cui ovviamente Hugh Hefner. al Beverly Hills Hotel. Chissà tra le sue invitate quante erano già state a letto con il bassista dei Kiss. Comunque lui ha vissuto la sua vita con l'abilità di chi sa cogliere al volo le opportunità che la vita offre senza lasciarsi distrarre dalle strade più facili. Insomma, ha investito tutto sul proprio lavoro e ha ottimizzato il rock and roll. Bisogna trovarsi nel posto giusto, al momento giusto. Devi avere fortuna, ma devi anche avere talento. Ma soprattutto devi avere rigore e dedizione. Quando vuoi conficcare un chiodo in una tavola, non basta colpirlo una volta, ma devi battere e battere. E talvolta, ma non sempre, il chiodo entra fino in fondo. E non importa se sei più figo, intelligente o veloce degli altri. È la tartaruga che vince la corsa, non la lepre. Idee vincenti che diventano un colpo d'ala, diventano il modo per entrare a testa alta nel business grazie al rock and roll, creare un mito attorno a se stessi, ottimizzando il tutto e arrivando a guadagni spaventosi. Si dice che lui sia vicino al miliardo di dollari di patrimonio. Non so se mi sono spiegato. Ci sono storie di vite straordinarie che noi vi chiediamo di segnalarci e così ne parliamo assieme. Fatelo via mail, il falco il gabbiano chiocciola radio24.it, oppure venite a cercarmi, a cercarci su tutti i nostri social. Insomma, se volete mi trovate. Ciao, a domani.